36 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Ci siamo. Ovviamente la puntata di prove tecniche di trasmissione è quella dell'8 di maggio, cioè della scorsa settimana. Peraltro si accennava a un fatto che, essendo appunto successo in quel giorno, non abbiamo fatto in tempo a preparare adeguatamente una trasmissione. Mirata a questo, e poi si è aggiunta invece qualche giorno più tardi il 12 di maggio, un'altra data importante per il movimento tutto, per la storia nostra, un'altra scomparsa importante. D'altronde ci ripetiamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa, però sono fatti che appunto vanno un po' così ripetuti, ribaditi. E cioè stiamo parlando di Giovanna Marini e Steve Albini. Così anche ha iniziato la la trasmissione più scafata del palinsesto di Radio Onda Rossa, cioè Likewise, ricordando proprio queste due persone. E noi ci siamo così organizzati e preparati, ovviamente sull'argomento che più ci attiene, cioè quello del suono ruvido. Quindi cominceremo con Giovanna Marini, con così un extended play, come si diceva un tempo, della trasmissione del 24 di aprile che abbiamo fatto con Marco Devi 38 Punk, quindi riproponendo alcuni dei tradizionali di lotta in lingua italiana che Giovanna Marini più di ogni altro ha saputo rappresentare musicalmente. Ovviamente ha fatto molto altro, e appunto a questo dedicheremo gli spazi che Likewise appunto ha promesso di dedicarsi, nonché già erano andate in onda delle repliche. Quando Giovanna Marini era ancora in vita. E data la fasia invece che ci contraddistingue, vedremo se riusciremo a dire alcune parole comunque durante la trasmissione. La scaletta, ve lo dico adesso, è molto molto ricca. Ci abbiamo ovviamente il radioabbonamento, ci abbiamo la festa della radio, a cui avete ascoltato gli spot e che speriamo di saper poi descrivere nel dettaglio. Per ora vi rammento, vi chiedo, vi imploro di andare ad aprire la pagina web di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Ci trovate infatti, oltre a quello che vi siete perso durante la settimana in formato podcast, anche prima della settimana, c'è tutto l'archivio della radio, almeno quello che siamo riusciti ad archiviare appunto. Ci troverete anche in bella mostra in alto il banner del radioabbonamento. ci troverete il programma della festa, insomma ci trovate tutto, quindi andate sul sito e non ci fate parlare tanto, dai. Questa roba che le trasmissioni musicali bisogna parlare, bah. Così si diceva una volta, poi abbiamo sempre detto che non siamo una trasmissione musicale e con questo ce la siamo sempre cavata, però. La scorsa settimana appunto abbiamo dedicato una puntata intera alla ridondanza della parola in questa epoca rispetto ai fatti. E noi ci andiamo ad ascoltare Giovanna Marini. Il 22 di agosto a Boston in America Sacco e Vanzetti van sulla sedia elettrica e con un Rossa 22 e 46 minuti primi, Giovanna Marini e Francesco De Gregori, un disco di 22 anni fa che si chiamava Quelli che la la sanno, vogliamo cantare l'internazionale. Il fischio del vapore, qui Giovanna Marini invece, in piazza. Avanti il gran partito, siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto c'è fiorito, è una fede c'è nata e può, noi non siamo più nell'officina. Coro, in coro, in piazza. Bravo Giovanna. E poi c'è Bella Ciao nella versione, diciamo, più antica, quella del canto delle mondine, ormai la screditata Bella Ciao, lo dicevamo proprio il 24 di aprile, in bocca e cantata da le peggiori, da Calenda, insomma, e così via. Da chi non dovrebbe stargli molto lontano. E quindi questa è la versione del canto delle mondine di lavoro. Bella ciao. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina per alzate la gioia. Suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il capo in piedi col suo bastone e noi curve a mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mamma mia, oh che tormento, io ti invo. Verrà il giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà il giorno che tutte quante. Legaci mettiamo, oh, ali, oli, olai, non c'è l'unione. Gromiri col padrone, gromiri col padrone, la libertà non viene perché non c'è l'unione. Gromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Ah, io li ho là, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Ah, io li ho là, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, vogliamo. Avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Nel frattempo si inceppano gli strumenti di Onda Rossa. Per amor dei nostri figli in Lega ci mettiamo. Non c'è l'unione, gromiri col padrone, gromiri col padrone, la libertà non viene perché non c'è l'unione. Gromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Ah, io li ho là, e la Lega crescerà, e noi altri son. E questa è un'incisione ben più antica, ancora Giovanna Marini. La Lega vincerà. Libertà, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue. Se quindi un lavoro anche di ricostruzione, di recupero di quella che era la cultura proletaria di ci difendiamo del secolo scorso. Un recupero che denota contraddistingue, rileva. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate. Una cultura importante e per niente morbida e ben posizionata. Che ci avete tanto orgoglio, abbassate lassù. E come tante cose si vogliono cancellare, tante cose della storia del secolo scorso si vorrebbero cancellare, annacquare, diluire. E passiamo quindi ai giorni d'oggi. Socialisti, ah, io, la Lega crescerà, alla fine di quel secolo lì, da un'altra parte del mondo, ma con un'attitudine che non è poi così distante. Anche se appunto poi l'inceppo dei macchinari di Onda Rossa ci ha portato verso un'altra traccia. Allora diciamo subito, per quanto riguarda poi magari dopo cerchiamo di riprendere un po' le redini di questo inizio con sussulto della 25 o'clock di questa notte. Al contrario della critica che promuove Action Park come il disco più significativo, più rappresentativo per quanto riguarda la, il repertorio degli Shellac, a noi personalmente così, ma solo per vezzo dico, tra distinguerci dagli altri, questo 1000 Hearts Professional è il disco che più ci convince e più che altro ci regala emozioni, un disco fatto di suoni molto sincopati, più del solito, quindi Shellac. Dicevamo, non è questa la traccia che volevamo ascoltare, per cui ve la mandiamo ora sperando che il lettore non faccia le bizze nuovamente. You have no clue. Ma la terza traccia del lavoro, che si chiama Mamma Gina Shellac. like to dance. She would have liked you. When she heard you died, my pretty girlfriend cried and cried and cried and cried and cried and cried and cried and cried. She liked to dance. She would have liked you. Minuti primi, le frequenze di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale www.ondarossa.info, il sito della radio. Ci potete contattare attraverso i social, nonché nella modalità che più ci piace, cioè attraverso la mail di Radio Onda Rossa, ondarossa@ondarossa.info. Se volete molestare il sottoscritto, che d'altronde sarebbe una vendetta poi piuttosto ragionevole e comprensibile, 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritta a numero. E così, sì. È successo quello che doveva succedere, cioè arriva appunto questa notizia improvvisa della morte di Steve Albini. Decidiamo di comunque comporre una scaletta. E nel migliaio e qualcosa di più di collezione di musichette che ci abbiamo a casa, cominciamo a scartabellare le varie copertine dei dischi, così a fare un po' di incroci, di intrecci su internet per capire poi, e soprattutto per aiutare la memoria che ormai ci difetta. Ed è successo appunto quello che doveva succedere, cioè che ci accorgiamo che in realtà stiamo parlando di una produzione infinita, non tanto appunto dal punto di vista musicale. Gli Shellac, i Big Black, tutto sommato hanno fatto delle apparizioni discografiche sporadiche. Ma invece la presenza di Steve Albini, quale come diceva lui stesso, ingegnere del suono, come il signore che fa la registrazione in studio di registrazione, in realtà andiamo a scoprire un mondo infinito di robe che stanno proprio dentro questo migliaio di dischi che abbiamo potuto andare ad ascoltare cercando appunto il nome di Steve Albini. All'incirca 1500 sono le registrazioni che ha prodotto nel suo studio, poi andremo a leggere anche qualcosa riguardo. Ma soprattutto un'infinità proprio dentro la nostra medesima collezione, questo a significare dell'importanza. Di un disco che suona bene alle nostre orecchie, almeno a quelle della mia generazione, a quelli che hanno seguito tutto questo grande marasma musicale che è stato gli anni 90 e 2000, fino ai giorni d'oggi. E soprattutto come sia incisiva la figura, proprio incisiva proprio in termini di cut, di disco, di taglio. Come sia incisiva la modalità con cui venivano effettuate le registrazioni e venivano raccolte da un certo tipo di ascoltatori, ascoltatrici, di pubblico musicale. E di come sia influente, appunto. E quindi la prima band negli anni 90 di Steve Albini, Big Black, ci andiamo ad ascoltare Kerosene e poi andiamo avanti, avanti, avanti. All her goodness, all her goodness, grace it doesn't make you, grace it doesn't. Mi barazza di me. Thank you. 54 Queenie, PJ Harvey, registrata da Steve Albini. And this I know, his teeth as white as snow. What a gas it was to see him. Walker every day into a shady place. With her lips she said, hey party, party, party, let's have a ball. Hey party, party, party, let's have a ball. Hey party, party, party, let's have a ball. Gigantic, gigantic, gigantic. I'll be in love. Gigantic, gigantic, gigantic. I'll be in love. Lovely lady, Sarah. What a big black mess, what a hunk of love. We'd walk her every day into a shady place. Lots of dark, but I'd want to be a part. Yeah. rape me, my friend, rape me, rape me again. Primi le frequenze quelle di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Questa è 25 o'clock, 06 491 750, recapito telefonico della radio. Disturbateci se volete, o almeno trillateci, e speriamo di avervi fatto entrare con questa pausa della voce nel vivo della faccenda. E cioè del tipo di suono che piano piano vi prende, poi, perché ha delle caratteristiche importanti, fondamentali. E a tal proposito abbiamo ascoltato un po' un po' di PJ Harvey. Ride on Me, il disco del 1994, appunto registrato da Steve Albini. Avremmo potuto, voluto trasmetterlo nella forma che più sarebbe piaciuta all'ingegnere del suono, cioè in forma analogica attraverso il vinile, ma diciamo le attrezzature della radio al momento non danno la possibilità di mandare vinili. Ci attrezzeremo, promettiamo, per ripristinare anche questo aspetto della radio. E quindi abbiamo ascoltato Highway 61 Revisited, Fifty Queenie e poi Pixies, Surfer Rosa, quindi facendo un salto ancora indietro di qualche anno, 1988, tanto per capire come alcune boe in cui poi ha ruotato il suono indipendente della musica alternativa, del post-punk, sia appunto venga dalle fucine sonore degli studi di Chicago di Steve Albini. Fra le cose che abbiamo avuto modo di leggere in questa settimana sulla rete, articoli e così necrologi, come si dice, rispetto alla figura, tutto sommato la cosa più convincente è quella firma di Stefano Vizio su il post. Per cui abbiamo così il piacere di leggervela rapidamente, lasciando sotto la nostra voce, dopo aver ascoltato, ci eravamo dimenticati, In Utero ovviamente, 1993, per quanto riguarda Nirvana, anche questa registrazione di Steve Albini, e ovviamente stasera sarà tutto questo. Appunto, anche in questo articolo è citata, quindi lasciamo le parole a chi meglio di me sa descrivere un po' l'argomento, quindi l'importanza di Steve Albini. Invece, sempre, perché poi ci dimentichiamo, per andare a suoni più sconosciuti, questi sono Manor Astraman, una formazione surf dell'Alabama specializzata in suoni, in musiche che potrebbero essere usati per la colonna sonora di un film, per colonna sonora di film di fantascienza o comunque. Questa è la loro peculiarità. Appunto, dicevamo, l'importanza di Steve Albini, il chitarrista e ingegnere del suono americano morto a 61 anni, ha ispirato una generazione di band di appassionati, definendo un modo di suonare, di registrare, di intendere la musica alternativa. La morte del chitarrista e produttore discografico americano Steve Albini, avvenuta per infarto a 61 anni, annunciata mercoledì pomeriggio, è stato un momento di grande commozione collettiva per migliaia e migliaia di persone nel mondo che conoscevano l'enorme ruolo e influenza che ebbe nel definire il suono e l'approccio etico di un certo modo di fare e di intendere la musica alternativa. Tra gli anni 80 e 90 Albini suonò in alcune band molto amate, tra cui gli Shellac e i Big Black, ma soprattutto come produttore discografico, meglio ancora come ingegnere del suono, come preferiva definirsi. Mise le mani in decine di dischi fondamentali per la storia di generi diversi, accomunati però da una certa idea di cosa dovesse essere la musica e di cosa non dovesse essere. Albini ebbe a che fare personalmente con centinaia di band nell'arco di circa 40 anni e grazie alle sue personali tecniche di registrazione permise a tutte di incidere dei dischi esattamente come volevano loro ed esattamente come suonavano dal vivo, senza interferire o aggiungere niente di suo. Così facendo le aiutò a esprimersi liberamente e a fissare nei dischi l'autenticità e anche l'impulsività del loro suono e delle loro canzoni, una cosa che diversamente, facendosi produrre con le modalità previste dalle major, non avrebbero potuto fare. Era fortemente convinto che fosse quello il suo ruolo. Non considero il mio compito dirvi cosa suonare o come farlo, scrisse Nirvana nella famosissima lettera in cui si offriva di registrare quello che sarebbe diventato In Utero del 1993. Mi piace lasciare spazio agli accidenti e al caos. Preferisco lavorare a dischi che aspirino a qualcosa di grande, come l'originalità, la personalità e l'entusiasmo. Lo scrisse che singoli di successo non andò mai in televisione, ma a renderlo un personaggio leggendario e un'ispirazione per diverse generazioni di musicisti e di appassionati fu la sua etica ferrea, ancora dei principi fondativi della filosofia punk e del do-it-yourself, e in aperta ostilità col sistema delle major musicali. Perfezionò e trasmise una serie di pratiche e di standard che sono ancora oggi un modello di riferimento nella produzione della musica e dei circuiti indipendenti. Vorrei essere pagato come un idraulico, scrisse sempre in una lettera in Nirvana. Faccio il mio lavoro e mi pagato per quanto vale. Albini non voleva nessuna royalty per i dischi che registrava. Cioè non chiedeva nessuna percentuale sulle vendite. Penso che pagare le royalty a un produttore o un ingegnere del suono sia eticamente indifendibile. La band scrive le canzoni, la band suona la musica, i fan della band comprano i dischi e la band ad essere responsabile se un disco se un buon disco o un disco pessimo. Le royalty spettano alla band. La casa discografica si sarebbe aspettata da lui una richiesta intorno all'1-1,5% dei ricavi del disco, scrisse Albini nella lettera a Nirvana. Se ipotizziamo 3 milioni di copie vendute, fanno circa $400,000. Col cazzo che accetterei così tanti soldi, non ci dormirei la notte. In Utero, che registrò con Nirvana nel febbraio del 93 ai Pachyderm studio di Cannon Falls in Minnesota, avrebbe poi venduto 15 milioni di copie nel mondo. Nel suo Electrical Audio, lo studio di registrazione che fondò nel 97 a Chicago, la città in cui viveva, era nato in California nel 62, Albini mantenne sempre tariffe straordinariamente basse, chiaramente indicate sul sito. Per sé chiedeva $900 al giorno, una parcella risibile per uno dei più famosi e rispettati ingegneri del suono di sempre, che diede così la possibilità a tantissime band emergenti di lavorare come con il leggendario tecnico di In Utero. In 40 anni Albini lavorò con centinaia di band sconosciute, ma anche con alcune delle più famose della storia del rock alternativo. Gli Slint, di cui registrò Twits nell'89, i Jesus Lizard, Goat del 91, PJ Harvey, Ride on Me del 93, i Pixies, Surfer Rosa nel 98, dai Low, Time We Lost in the Fire del 2001, alle Breeders, Pod nel 90, dai Fugazzi, The Kill Taker del 93, ai Neurosis, Time of Grace, dai Mugway, My Father, My King del 2001, Goodspeed to You, Black Emperor, Yankee Yuxo del 2002, dai Sanno a Life Metal del 19, Joe Spencer Blues Explosion del 92. E registrò anche il disco di band italiani come gli UZ, a cui era molto legato personalmente, gli Zoo e i 24 Grana. Aveva peraltro origini piemontesi, disse in un'intervista. Tecnicamente quello che Albini faceva come ingegnere del suono era catturare più fedelmente possibile il suono di una band senza aggiungere o togliere niente in post-produzione, cercando quando possibile di registrare i musicisti mentre suonavano insieme, posizionando decine di microfoni nella saletta ed evitando le sovraincisioni. Il modo in cui restituiva il suono della batteria, catturandone il naturale riverbero ambientale, rendendone l'ascolto un'esperienza immersiva, diventò un modello per qualunque ingegnere del suono negli anni 90. Così come il modo in cui faceva suonare le chitarre elettriche, taglienti, esplosive, ruvide, e quello in cui in molti dischi registrò le voci senza renderle necessariamente l'elemento centrale del mix. Per band la cui musica si basava in gran parte sull'istintività, sulla visceralità, sull'improvvisazione, che si esprimevano al meglio in piccoli locali davanti a qualche decina o centinaia di persone, poter trasportare quel tipo di situazione su un disco era fondamentale, eppure normalmente difficilissimo. Albini lo rese possibile. Tutte queste tecniche e queste idee le divulgò con grande generosità per tutta la vita, sempre seguendo la sua filosofia punk della condivisione delle conoscenze, in modo da far crescere la scena della musica alternativa e indipendente americana. Così fu prodigo di opinioni sempre perentorie e caustiche sullo stato dell'industria discografica e sulla minaccia rappresentata dal modo di agire delle major. In un famoso saggio pubblicato nel 93, intitolato Il problema della musica, spiegò come gli scout delle grandi etichette discografiche convincessero le band emergenti a firmare contratti vincolanti fingendo di fare loro i loro interessi. Costretti a fare dischi diversi da come li volevano, seguiti da produttori invadenti e senza competenze tecniche e ingegneristiche, i membri delle band finivano per ottenere poche migliaia di dollari di compenso per un disco che avrebbe poi fruttato centinaia di migliaia di dollari per l'etichetta e decine per il produttore e il manager, rimanendo di fatto indebitati con le major e obbligati in questo modo a registrare altri dischi su cui avrebbero avuto ancora meno controllo e in cui la loro creatività sarebbe stata ulteriormente piegata alle esigenze commerciali. La sua integrità e la sua pervicacia resero Albini un personaggio rispettato e amato come pochi altri in un contesto musicale che ebbe un'enorme influenza, quello della musica alternativa statunitense degli anni 80 e 90, che si sviluppò in sottogeneri come il post-hardcore, il noise, il math rock, il doom metal, l'industrial. Le band che animavano questa scena si ispiravano alla musica dei Velvet Underground e degli Stooges e portarono avanti una ricerca musicale che tendeva all'avanguardia, rifiutando il gusto, le convenzioni e le dinamiche del rock mainstream. I dischi e le band che segnarono quel periodo della musica statunitense, da quelle più famose come sono i Cute, i Fugazzi, gli Swan, gli Slint e gli Askerdu, fino alle molte più oscure di nicchia, esercitano ancora oggi un'influenza fortissima e sono il riferimento principale per chi fa musica con le chitarre nei contesti più alternativi e indipendenti. Steve Albini era uno dei padri nobili di questo contesto musicale, uno che veniva citato di continuo con affetto e stima da chi ci aveva lavorato insieme, ma anche da appassionati qualsiasi. Con gli Shell, il disco più celebre, ed Action Park del 94, si esibiva da quasi 20 anni a ogni edizione del Primavera Sound, il famoso festival musicale di Barcellona, in quello che era diventato un appuntamento fisso per moltissimi fans della band. Erano previsti anche nel cartellone dell'edizione che si svolgerà a fine mese, il 17 maggio, e invece dovrebbe... Il 17 maggio invece dovrebbe uscire Two All Trains, il primo disco da 10 anni a questa parte degli Shellac, che per questo sulla copertina del numero di giugno della rivista The Wire. Negli ultimi anni Albini aveva portato parte del suo attivismo su Twitter, dove scriveva con assiduità opinioni perentorie e acide sull'industria musicale e sull'attualità. Aveva assunto posizioni fortemente progressiste, ammettendo e rinnegando per altre certe cose offensive e disdicevoli dette e fatte in gioventù, quando lui e una generazione di uomini bianchi erano convinti che le grandi battaglie per l'uguaglianza e l'inclusività fossero state vinte e che quindi non si facesse del male a nessuno a fare i bastian contrari, i provocatori, i sarcastici e gli ironici. Ma a rappresentare una specie di genere letterario nei suoi aneddoti e le sue opinioni sulla musica, espresse spesso in forma epistolare. In una lettera che scrisse a un DJ che gli chiedeva se poteva campionare un pezzo degli Shellac e che poi fu stampata su un cartellone pubblicitario gigante, scrisse: «Sono assolutamente il pubblico sbagliato per questo tipo di musica. Ho sempre odiato la musica dance meccanizzata, la sua stupida semplicità, i club in cui viene suonata, le persone che vanno in questi club, le droghe di cui si fanno, le cazzate di cui amano parlare, i vestiti che indossano, le battaglie che hanno combattuto tra loro. In sostanza tutto quanto odio al 100% ogni suo pezzetto». Ciò nonostante, scrisse al DJ, poteva fare quello che voleva con il suo pezzo. «Sono contro quello che ti piace, sono un nemico del luogo da cui provieni, ma non ho nessun problema con quello che fai». Questo genere di opinioni categoriche e beffarde contraddistinsero la sua immagine pubblica, costruendogli una reputazione da stronzo, ma lo resero anche amato, autorevole e carismatico, non solo fra gli amanti del rock e del punk indipendente, ma in generale per chi si riconosceva nella cultura alternativa. Il sito Resident Advisor, specializzato in musica dance, ha riassunto che tipo di fascino esercitava scrivendo che odiava la musica elettronica e per questo fu ancora più amato da una generazione di appassionati di musica elettronica. Nella musica dei Big Bang, la band hardcore in cui suonò dei Big Black, la band hardcore in cui suonò dall'81 all'87, né quella dei Rapman dall'87 all'88, la band del band del cui nome l'uomo dello stupro si pentì pubblicamente anni dopo, né quella degli Scella, che è disponibile su Spotify, una società pessima con cui non ho voglia di avere niente da fare, scrisse sul social Blue Sky. Non era però pregiudizialmente contro le modalità con cui internet ha cambiato l'industria musicale, anzi, a un certo punto, una decina di anni fa, era convinto potesse aver risolto il famoso problema della musica, rendendola più democratica e meno dipendente dalla volontà delle menti. Albini cambiò spesso idea, ma non rinunciò mai al suo intransismo e alle sue visioni radicali. Sarò per sempre il tipo di punk che insulta gli stili dem, scrisse l'anno scorso su Twitter, riferendosi a una delle band più distanti dal suo modo di concepire la musica. Le sue magliette nere, la sua chitarra sorretta da un gancio in vite, i suoi occhiali spessi e il taglio di capelli normalissimo lo aveva reso una presenza stilosa nella sua uncleness. Altri aspetti della sua personalità, come l'abitudine a chiacchierare con i fan dopo i concerti e le generosità nel dare interviste, accrebbero l'effetto dei suoi confronti. Sul Guardian il giornalista Jeremy Gordon ha ricordato una lunga intervista che gli aveva fatto l'anno scorso, prima di salutarlo. Gli chiese se aveva pensato come sarebbe stata ricordata la sua carriera se fosse andato in pensione il giorno seguente. Non me ne frega un cazzo, lo faccio ed è quello che mi importa. Il fatto è che continuo a farlo e alla base di tutto. Lo facevo ieri e lo farò domani e continuerò a farlo. 23 e 58 minuti prima, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, abbiamo ascoltato da Gavin to the Races, Neurosis, 2007, ancora una registrazione di Steve Albini, forse una di quelle, ma il post-core, il muro di suono che producono i Neurosis, insomma, impastava un poco gli strumenti in queste tracce. E forse appunto il suono più cioè chi diceva che era un suono sporco quello prodotto da Albini, e non credo sia questo. Se avesse registrato musica classica, la sua principale cura sarebbe stata quella di riprodurre gli strumenti per quello che erano. E quindi il violino con le sue sbavature, il pianoforte con le... con le proprie note sopra le righe. È proprio la caratteristica, è proprio quella, e ascoltando bene si determina questo fatto di distinguere invece perfettamente tutti gli strumenti e restituirne appunto il suono valvolare, il suono degli ampli, e di fare delle distorsioni, dell'arsen, dei fischi, un aspetto proprio della costruzione sonora che si sta ascoltando, senza togliere nulla. E appunto per questo, senza ammorbidire, ma non lo definirei un suono sporco. A mezzanotte e 48 secondi, ormai passati al 16 di maggio, andiamo avanti. Helmet. In the meantime, ancora registrazione di Steve Albini. 07 minuti dopo la mezzanotte, e forse se dobbiamo ascoltare il tipo di suono che produceva Steve Albini, è proprio questo album eccezionale 2007 per quanto riguarda The Stooges, ancora nel 2007 diciamo al completo. Not stand the heat. They looked at me with scorn. Iggy Pop alla voce, Ron Asheton alla chitarra, Scott Asheton alla batteria, Mike Watt al basso. Mike Watt al basso. Just describe modern life comes to mind. This world. Sentite che roba, che che si fa quando ci si trova dinanzi a un vero e proprio monumento della storia del proto-punk, del rock genuino, autentico, della fine degli anni 60, eppure redivivo. Per cui tutto il colore della, il colore scuro, il colore di grigi del, dell'essere selvaggi, incontenibili, malgrado appunto gli Stooges fossero alla fine della parabola, ormai insomma si riunirono per questo disco occasionalmente dopo una serie di concerti, ne abbiamo parlato. Come si fa a regalare una testimonianza assoluta di appunto un pilastro della storia del rock and roll disegnarne appunto questa crudezza proletaria? Ecco, che è proprio la cifra distintiva degli Stooges, malgrado e nonostante tutto la loro monumentalità. Is this thing on? Can you hear me now? Can you hear me now? In session tonight. Ghost of a brilliant man. As we come to the close of our broadcast day, my farewell transmission. Signing off, Mr. and Mrs. America and all the ships at sea. Anyone within the sound of my voice, this is the BBC World Service. Is this thing on? Can you hear me now? Got 50,000 watts of power. I got my radio on. Out on Route 128 in the dark and golden. It's the sound of modern moonlight. Can you hear me now? The end of radio, and we miss it. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? It's the end of radio. Welcome to your top 10. And this one goes out to a special girl. But is it really broadcasting if there's no one there to receive? Announcer plays the last record and the last what leaves the transmitter to circle the globe, search of a listener. Can you hear me now? It's the end of radio. John Peel was a hell of a man. It's session tonight. It's the end of radio. This microphone turns sound into electricity. I wanna ionize the air. She said, not if you were the last man on earth. Can you hear me now? Yeah. This is a test. If this had been a real emergency. Hey, hey! This is a real goddamn emergency! It's the end of radio! Broadcasting if there's no one to receive, and it's just me and my favorite records. You could call it dead air. I think that's rude. Can you hear me now? To thank our sponsor, but there is no sponsor. Martina Navratilova could not get a sponsor. Martina Navratilova, your name is really fun to say. Martina Navratilova, I'll be your sponsor. I want to sponsor you, Martina Navratilova. Is this thing on? Cosa succede quando si incontrano ancora a quell'epoca vivente John Peel e gli Shellac? Ecco, questo è quanto succede, raccolto poi in un disco, un doppio disco, uno più breve che... No, that's just me. Were our vocals crappy at last night? Yeah, generally. Riporta le registrazioni di una prima session che fecero appunto live alla BBC, alla trasmissione di John Peel nel 1994. E poi, e quindi da qui abbiamo ascoltato Crew, e poi The Kingdom Radio, questa qua del 2007, il disco, non so adesso se quando è stata questa esibizione alla BBC, probabilmente 2007, sì. No, 2004, The End of Radio, un talk cover, praticamente un'improvvisazione, come avete potuto ascoltare, che interagiva con la situazione in cui stava suonando, cioè in questa diretta live radio. Vabbè, ogni tanto si ha un pezzo di plastica, si riesce a raccogliere da qualche parte un pezzo di plastica con inciso delle tracce e... Così si è orgogliosi di poter poi suonare questo disco sia in privato e poi ovvero. In un contesto radiofonico. 25 o'clock, 27 minuti dopo la mezzanotte, ci sarebbe da raccontare la festa della radio. Lo facciamo, ci proviamo. Per ora una piccola pausa, diciamo. Dagli Shellac passiamo invece a un'altra produzione, un'altra registrazione fatta da Steve Albini. Your cigar was ironic. Stiamo parlando del 2002, questa è Nina Anastasia. It's chronic. Cantautrice, mi sembra canadese, se non andiamo errati. Disco del 2002, dicevamo, che si chiama Run to Run, registrato da Steve Albini. In cui a fine copertina founded in part by socialist, quindi una parte dei proventi di questo disco andavano a non ben precisati socialisti, probabilmente anche un ventaglio sottoscrizioni fatte alle tante organizzazioni che Nina Anastasia, le più organizzazioni che Nina Anastasia voleva supportare. You are and me, Onda Rossa 25 o'clock. Car, I can't move my hands or my feet. We'll be right back. 9 minuti dopo la mezzanotte e ve l'abbiamo fatti ascoltare tutti questi 15 minuti di Yankee Yuxo. Ed è spiegato bene all'interno della copertina un altro incontro. Di quelli che si ripetono probabilmente una volta o poco più nell'arco di un'esistenza, cioè Steve Albini e Godspeed You Black Emperor che vanno a registrare. Partono da Montreal e vanno a registrare a gli Electrical Audio di Steve Albini a Chicago con gli strumenti e il furgoncino. Dicevamo che l'abbiamo fatto ascoltare tutto fino all'ultima nota, perché innanzitutto si tratta della prima traccia del lavoro Yankee Yuxo. Che si chiama 91500 e viene spiegato poi dentro perché quando le truppe di Ariel Sharon il 15 settembre del 2000 circondarono con 1000 soldati israeliani, marciarono e circondarono Olaram Ash Sharif, cioè il tempio, la moschea di Gerusalemme Vecchia. Questo così, innanzitutto per fissare una data, una delle tante in questi 80 anni e forse più. Di quella che è stata la continua opera di invasione e colonizzazione delle terre di Palestina da parte dell'entità sionista dello Stato israeliano. Ai danni degli abitanti, della cultura, della storia, della vita dei palestinesi. E ancora di dietro al disco della copertina ci sono segnate ai quattro angoli della copertina in uno schema schizzato sopra appunto il retro di copertina, e cioè la Sony, la Vivendi Universal, la BMG e la OL Time Warner. E poi attraverso questo schema, questo diagramma che è presente in copertina, si vedono, si notano, sono evidenziate le varie compartecipazioni nelle diverse finanziarie che poi finiscono appunto nelle Yankee Yuxo, cioè nelle fabbriche di bombe americane e di bombe a grappolo per l'esattezza, ritornate di moda da un po' di tempo, perché appunto Yuxo sta per Unexploded Ordnance cioè ordigni inesplosi. Come sapete appunto l'utilizzo delle bombe a grappolo produce una prima esplosione dove vengono liberate altri piccoli ordigni, normalmente con un piccolo potere esplodente, e che però dato il loro numero statisticamente una parte rimane inesplosa sul terreno, sul campo di battaglia. E E siccome sono piccole, molte volte di plastica, molte volte hanno sono semplicemente degli oggettini di plastica che poi molti anni dopo la fine delle guerre questi ordigni vengono raccolti, vengono calpestati, vengono toccati solitamente da bambini, appunto, che curiosamente vanno, cercano di capire come si tratta e provocano una strage che però non è evidenziabile, appunto, perché sono tanti incidenti che accadono estemporaneamente e dislocati nel tempo e nello spazio, per cui è una di quelle stragi che rimangono così un po' sotterrate, non all'ordine delle prime pagine dei media, ma tant'è che comunque è un... è uno dei tanti aspetti criminali e assolutamente da evitare della guerra e di tutte le guerre. È l'una ormai e 25 o'clock continua imperterrito. Se c'è una band che ha raccolto il testimone degli Shellac, non possono essere che questi Breakthrough, o almeno ci hanno provato. Breakthrough, Artiglio dell'Orso da Chicago, e manco a dirlo andarono a registrare all'Electrical Audio di Steve Albini. Abbiamo ascoltato da questo lavoro che si chiamava Slow Speed Deep Holes. Slippage. E qui andiamo sul facile. Produzione ancora di Steve Albini, non preso dal primo disco degli Slint, ma del disco più figo che esiste degli Slint, che poi insomma non è che ci vuole tanto, sono tre i dischi. E come per gli Shellac, ancora ancor più degli Shellac e di Steve Albini, dischi assolutamente seminali, come dicono quelli forti in gergo. E dicevamo il più figo perché è proprio il classico atteggiamento del post rock di questa tendenza, diciamo, di questo modo di interpretare la musica, che assolutamente il più lontano possibile dallo Star System. Normalmente ci si presentava in maglietta nera, bianca, come vi pare, un paio di blue jeans o calzoncini corti, scarpe da ginnastica e appunto come si diceva, senza troppi tagli di capelli strani o cose appunto da palcoscenico. E anche nella presentazione del disco si tratta di una classicissima copertina di quelle di plastica, con una copertina dove ci stanno gli Slint, una fotografia con gli Slint non ben identificati, appunto abbastanza lontani che non si vedono le facce, uno sdraiato, insomma vabbè, una cosa, una foto anche bella, ma che sicuramente non di grandissimo effetto. E null'altro, non c'è titolo, non c'è titolo delle tracce, c'è solamente quello che viene riportato, l'etichetta che produce, nella fattispecie la Touch and Go, e il numero di serie del disco, che quello ci deve stare per forza. Quindi il disco è stato chiamato Untitled perché appunto non c'è titolo, di cui andiamo a ascoltare la prima traccia, che pure quella non c'è titolo. Slint fu registrato insieme al primo lavoro degli Slint, e uscirono fuori queste due tracce, ne fu fatto un EP qualche anno dopo, e questi sono gli Slint, dai. 15 minuti dopo la mezzanotte, Don Caballero. Dopo gli Slinta, ancora Aur Caballero, tratto dal lavoro. Single Breaking Up del vediamo se si capisce la data al volo, del 99 e per l'esattezza, manco a dirlo, Aur Caballero è fu registrata da Steve Albini come parte della produzione di Don Caballero. E veniamo quindi al tanto celebrato Reaction Park. Anche qui gli Shellac si dedicarono a una copertina piuttosto stravagante, un grafichetto interno che sarebbe questo Action Park, una grafica insomma con un disegnetto abbastanza infantile, non sappiamo bene esattamente da chi fatto da chi, magari nei credits di copertina ci può essere scritto, difficile trovarlo, vabbè. Comunque insomma, Bob Weston, Steve Albini, Todd Trainer, insieme a Joe Loder, Ian Burgess, Peter Diemel e Corey Rusk. Andiamo ad ascoltare la settima traccia da Action Park che si chiama The Idea of Nord. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. decide exactly what it is they face. All this progressive thought, very pointy. It's not too active. No one says. Know what to say, short do. Skinny, covered in shit and hair, many hairs. This will another confront one rubs you. And says, very bumpy. Fact of the matter notes, is, all shout, facts don't matter. Anti-intellectual, the new virtue. Repeat a lie names as if that makes it true. Repeat a lie that makes it true. Repeat the lie Avini. Oh my god. Uno, l'una e 24. Allora, se vogliamo intendere invece, vogliamo interpretare come intendeva la chitarra, l'utilizzo della chitarra elettrica Steve Albini in questo doppio lavoro del 1992, Steve Albini emigra, fa tappa a Tokyo, dove conduce una serie di registrazioni in studio con Zenigheva, e poi si produce anche in un live qualche giorno successivo. Il tutto nel marzo del 1992, ne escono queste registrazioni che verranno pubblicate nel 2018 su disco. Dicevamo, se vogliamo interpretare il modo di intendere la chitarra di Steve Albini, per Albini la chitarra è uno strumento tutto sommato marginale. Sottointeso, diciamo, abbastanza facile nella sua parte dello schema musicale, ma con delle esplosioni poi. Di assoluto protagonismo e dirompenza. Va bene. Abbiamo anche tagliato un po', avete, gli intenditori avranno avuto modo, e le intenditrici ancora di più avranno avuto modo di intendere che, così, un po' la fretta di chiudere questa lunga trasmissione ci ha portato un po' a tagliare l'ultima parte dedicata agli Shellac e a Steve Albini. Questo perché abbiamo omesso ancora la presentazione della festa di Onda Rossa. Mercoledì prossimo non ci saremo. E perciò lo facciamo stasera, quindi vi ricordiamo quello che sarà il 24, 25 e 26 maggio 2024, festa di Radio Onda Rossa. Inizierà venerdì 24 in via dei Volsci 56, qua sotto la radio, dalle ore 18. Auguri, Roro, 47 anni, diretta in strada. Radio Onda Rossa si racconta un anno di radio, DJ set di Good News più la cicala. I consueti, ovviamente, brindisi e pause di cibarie varie, chiacchiere e abbracci e incontri. Per tutte e tutti coloro che non riescono ad avere l'assiduità di frequentare la radio, ma che comunque continuano ad amarla, continuano a starci dentro, perlomeno con il cuore, se non fisicamente. Sabato 25 invece ci spostiamo al centro sociale occupato e gestito ex SNIA in via Prenestina 173. Dalle ore 19 Gaza ora. Messages from Dear Friends. Lettura di messaggi di Gaza, di Ossam, a cura della compagnia teatrale londinese Azia Theater e della compagnia teatrale della striscia di Gaza, Theater for Everybody. La cena è a cura di Radio Onda Rossa dalle ore 22, concerto con Karima 2G. e Sabine Salamé. A seguire DJ Set Electro Chili. Ci spostiamo alla domenica 26, si parte un po' più presto, intorno alle ore 18, verso il Pride 2024. Incontro nessun pinkwashing sui nostri corpi. Dalle 21.30 spettacolo narrativo. Luoghi amati con Viola Lo Moro e Sonno. Musiche di Bernardo Grosso. E poi la cena a Bescia a cura della comunità del Tigrai. E questa è un'importante occasione per incontrarci con tutte e tutte, con i nostri sottoscrittori e le sottoscrittrici di Radio Onda Rossa tramite Radio Abbonamento, che alle volte rimangono un poco anonimi. In questa maniera avremo modo di incontrarci di persona, di discutere, di parlare, di scambiare opinioni, critiche, costruttive, distruttive, quello che vi pare. A trovare. L'importante è che si ricostruisca comunicazione fra i compagni, fra le compagne. I militanti, le militanti e i movimenti che alle volte appunto stentano a parlarsi fra loro, a incontrare i punti in comune. A partire invece dalle tante tante cose che abbiamo in comune. A partire che questo modello di sviluppo capitalistico, imperialistico, colonialista, suprematista, patriarcale, metteteci tutto quello che vi pare, ci costringe comunque a essere tutte e tutti subalterni. Più importante va a tutte e tutte coloro che ci ascoltano da limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliati, messi, vabbè ormai non ci siamo più, all'1:30 passata, arresti domiciliari, famigerati, centri per di detenzione per i migranti, decreti amministrativi, eccetera eccetera. Le programmazioni della radio in diretta finiscono e direte pure era ora. Diciamo finiscono con noi, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata con le sue repliche, le bizzarre selezioni musicali. Si riprende domani mattina, o anzi meglio stamattina, alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. I redazionali dalla città e da tutti gli altri luoghi in cui ci si muove. Poi dalle 13 alle 14, e alle 13 alle 14 le repliche che vi proporrà sempre la compagnia automatica Sonata, dalle 14 alle 15 tutta scena cinema, dalle 16 alle 17 Attica Blues oltre alla Black Music, dalle 17 alle 18.30 le schiena del Sol. Piccola pausa e si riprende con Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Danilo Rossa dalle 20 alle 21.30, dalle 22 alle 23. I cuginetti d'apostasia, ma sappiate che le 22 alle 23 è solamente scritto lì sulla carta, loro iniziano praticamente sempre alle 11, almeno in voce, prima si dilettano al mix. Bene, la tagliamo così, bella a tutti e a tutte, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai, ci vediamo sotto la radio e alla SMIA, e per ora non ci sentiamo, vediamo un po' più in là quando riusciremo a ritornare a trasmettere, dai. I'll share our dreams under a communist